Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, il documento di economia e finanza regionale, i question time presentati alla Giunta in tema di alluvione, ambiente, sanità, welfare e rifiuti, i dati sul ritiro sociale degli adolescenti e le nuove mostre in Assemblea. La priorità è la ricostruzione post-alluvione, mentre la preoccupazione è la tenuta dei conti della sanità. Le sfide si chiamano innovazione tecnologica, potenziamento del trasporto pubblico, sostegno al mondo agricolo, al commercio e all'artigianato. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato a maggioranza il documento di economia e finanza che contiene obiettivi e indirizzi per il bilancio regionale di previsione del 2024. Sentiamo Palma Costi del Partito Democratico e relatrice di maggioranza del provvedimento. Siamo una regione di alta qualità, con uno sviluppo molto forte. L'impegno è quello di mantenere questa capacità di creare ricchezza, buona ricchezza, perché parliamo di transizione ecologica oltre che digitale, ma soprattutto la capacità di redistribuirla rispetto alla nostra popolazione. Molto critico il relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli della Lega, che ha votato contro. C'è scritto tanto, c'è scritto molto di quello che si potrebbe e si dovrebbe fare, ma in realtà il Partito Democratico non realizza nulla di quello che c'è scritto. Quindi lo abbiamo identificato proprio come un documento privo di obiettivi, di risorse, di intenti, tanto che è naturale votare contro un documento di questo tipo qua, che è la stessa fotocopia degli anni precedenti. Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle ha parlato di approccio ordinario e ha definito grave la mancanza nel documento della legge sul clima. Ascoltiamola. Per quanto riguarda invece gli aspetti ambientali, in particolare il dissesto idrogeologico, non vediamo una vera assunzione di responsabilità da parte di questa giunta. Manca una risposta di tipo strutturale, e mentre l'approccio è ancora di tipo ordinario. Manca addirittura tra gli obiettivi l'approvazione della legge sul clima, che abbiamo inserito in commissione grazie a un mio emendamento da approvare entro il 2024. Passiamo ai question time. Rimane in primo piano l'alluvione in Assemblea Legislativa. In particolare sul tema degli indennizzi sono tre le interrogazioni presentate alla Giunta. Nel suo atto, Manuela Rontini del Partito Democratico ha chiesto che il governo preveda risarcimenti anche per il mobilio e gli elettrodomestici. Dalle prime indiscrezioni pare che i beni mobili, elettrodomestici, cucine, lavastoviglie, lavatrice, non siano previsti come rimborsabili. Ho interrogato la vicepresidente Priolo su questo, che ha assicurato che la Giunta continuerà a lavorare con la struttura commissariale perché anche questi beni vengano inseriti tra quelli rimborsabili, ne abbiamo bisogno. Evangelisti di Fratelli d'Italia ha focalizzato l'attenzione sui tempi di attivazione della piattaforma Sfinge, il portale sul quale potranno essere inoltrate le richieste di risarcimento e di fondi per la ricostruzione. Appare che finalmente le imprese potranno avere funzionante per il 15 di novembre il programma Sfinge. Serve alla struttura commissariale per permettere l'erogazione dei contributi. I soldi sono stati stanziati da tempo, le imprese aspettano. Legato al tema delle risorse per gli alluvionati, anche il question time di Marco Mastacchi di Rete Civica, che ha parlato di ritardi nella liquidazione dei rimborsi. Il numero di pratiche erogate è veramente basso, per cui l'aspettativa dei cittadini è quella di riuscire in tempi brevi a superare il tema della burocrazia che sta rallentando purtroppo questa erogazione. Continuiamo con le interrogazioni presentate nel corso dei question time. Silvia Zamboni di Europa Verde ha chiesto aggiornamenti sul progetto di rinaturazione del fiume Po previsto nel PNRR e ha manifestato preoccupazione per un eventuale rallentamento e ridimensionamento dei lavori. Sentiamola. Sarebbe un peccato perdere fondi e perdere tempo. Il tema è quello della pioppicultura, che è un tipo di agricoltura intensiva altamente inquinante. Speriamo quindi che se ci saranno delle ridefinizioni del progetto, questo però non vada a snaturarne la natura di progetto che vuole veramente portare a un recupero della biodiversità e a un recupero degli ambienti naturali e degli ecosistemi. Valentina Castaldini di Forza Italia ha interrogato la Giunta in merito alle prestazioni sanitarie erogate nella struttura di Vicolo Bolognetti a Bologna, gestito da associazioni. Finalmente, dopo un tempo molto lungo, la Giunta, e quindi Donini, ha affermato che a breve ci sarà un controllo dell'ASL e andrà a vedere che cosa accade dentro Vicolo Bolognetti, che è di fatto uno spazio gestito da associazioni, fra cui la BA, a Bologna. Marcella Zapatera del Partito Democratico, assieme al collega Marco Fabbri, ha invece chiesto notizie sul bando destinato alle giovani coppie per l'acquisto di un'abitazione, specifico per il Basso Ferrarese. La misura è già stata utilizzata per le aree montane, ha detto, e in questo caso si tratta di un territorio ricompreso nella strategia nazionale delle aree interne a rischio spopolamento. Considerato che il Basso Ferrarese è nella strategia nazionale delle aree interne, tutti gli indicatori indicano che è un territorio fragile, indicatori economici, sociali, invecchiamento della popolazione e spopolamento, quindi ho chiesto alla Giunta di procedere velocemente a fare il bando anche per quella zona. L'assessore Taruffi mi ha risposto positivamente, predisporranno 700-800 mila euro e sono già pronti a fare il bando per febbraio-marzo 2024. Sui disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti a Modena ha interrogato Giulia Gibertoni del gruppo Misto, che ha giudicato insoddisfacente la risposta della Giunta. I cittadini vengono sanzionati, multati, rimproverati, rimbrottati, quando in realtà andrebbe semplicemente incentivata la raccolta differenziata in un rapporto di reciproca affidabilità tra amministrazione e cittadini, con i suoi tempi, ogni territorio fa storia a sé, e con l'ascolto dei cittadini e non soltanto l'ascolto delle esigenze della multiservizi. Cambiamo argomento. Cresce il numero dei ragazzi e delle ragazze in isolamento volontario, i cosiddetti hikikomori. Il ritiro sociale risulta in enorme crescita tra gli adolescenti e i preadolescenti negli anni post-Covid-19. Nell'ultimo anno sono circa 800 i casi rilevati in tutta la regione. Le segnalazioni sono pervenute principalmente dai servizi di neuropsichiatria infantile e dai servizi sociali. Maschi e femmine sono in misura uguale, mentre il picco riguarda la fascia di età tra i 15 e i 16 anni. Il 44% non va più a scuola, il 28% ci va solo un giorno a settimana. Ad un anno dall'approvazione delle linee di indirizzo sul fenomeno tra i più rappresentativi del disagio giovanile, le commissioni cultura, sanità e parità hanno fatto il punto sulla situazione a partire dai dati raccolti in questi mesi. Sentiamo il presidente della commissione parità, Federico Amico. Un fenomeno purtroppo in crescita che merita delle risposte coese da parte delle varie livelli, sia istituzionali che operativi, comunali, dell'ASL, della regione. Credo che lo sforzo congiunto potrà portare buoni risultati. L'indagine evidenzia anche una forte relazione tra ritiro sociale e i disturbi d'ansia. Fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche nell'intercettare i casi di disagio. Francesca Marchetti, presidente della Commissione Cultura. Il ruolo della scuola rimane un ruolo di fondamentale primaria importanza come agenzia educativa che per prima può intercettare anche in un'azione preventiva quelli che sono i segnali di disagio. Credo che proprio su questo, su questa sinergia, dovremo continuare a lavorare in modo proficuo, mettendo a valore anche le buone pratiche che questa mattina sono state evidenziate. Centrale anche il tema delle risorse. Francesca Maletti, vicepresidente della Commissione Salute e Politiche Sociali. Questa indagine che ci ha permesso di fare una valutazione sia quantitativa ma anche qualitativa del fenomeno ci permette anche rispetto al prossimo bilancio preventivo di avere delle indicazioni per poter destinare ulteriori risorse per aiutare questi ragazzi e queste famiglie. Concludiamo con la cultura. Per il secondo anno consecutivo la Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna torna a Bologna negli spazi espositivi di Viale Aldo Moro con due mostre, La memoria o Il desiderio del tempo di Paolo Racagni e Musica da camera 30 mosaici di piccolo formato a cura di Sandro Malossini. Le due esposizioni saranno visitabili fino al 22 novembre nella sede dell'Assemblea Legislativa nei giorni feriali. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.emr.it. Grazie per essere stati in ascolto e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sardi.